Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Soffia quel naso de falco, scrolla la frogia perché c'ho questo. Provate a tapparvi il naso mantenendo la posizione per qualche secondo e provate come sto facendo io a dire qualche parola. Come va? Malino, eh? Si tappano anche le orecchie, ma forse succede qualcosa d'altro. Adesso libero il naso, anzi l'ho già liberato perché non riuscivo a parlare. Saluto il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e al Buzzi di Milano, che facendo l'otorino del naso e di naso se ne intende. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si tappano le orecchie chiudendo il naso, ma poi succedono una serie di cose di certo. Cui noi non ci rendiamo conto, perché insomma il naso non ce lo sentiamo, ma ha un sacco di compiti. Certo, perché una volta un paziente mi ha detto: ma il naso non potevano essere solo due tubi che fanno passare l'aria e così eravamo a posto? Invece dentro il naso c'è un mondo, c'è tutto quello che è come un filtro che ci mette in comunicazione con tutto l'ambiente esterno. E è un modo per conoscere, infatti c'è anche il modo di dire: quando uno non trova una cosa ce l'hai lì sotto il naso. È vero, perché è proprio un indicatore, perché il naso è proprio uno degli organi che risveglia di più l'attenzione, perché prima di conoscere o di analizzare le cose bisogna essere sollecitati, e quindi il naso è proprio non solo attraverso l'olfatto, ma proprio perché è una punta che abbiamo davanti, è proprio un puntatore che ci sollecita l'attenzione. 800 24 0024, se volete ficcare il naso qua dentro a raccontarci di lui, di come funziona, se respirate bene e come cattura gli odori. 349 238 6666, se invece preferite mandarci un messaggio. Come se sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è Naso Nasino. Che dice il dottor Franzetti? Naso Nasino o anche Nasone. O Nasone. Sono molti in questi giorni, a proposito di naso, gli italiani che hanno il naso chiuso per colpa di un raffreddore che è un po' fuori stagione, perché gli sbalzi termici hanno visto riacutizzarsi le sindrome simili influenzali che hanno messo a letto, pensate, circa 120.000 italiani. I dati arrivano dal professor Pregliasco, che è virologo all'Università di Milano, io lo chiamo l'influenzologo di Essere Benessere, che sottolinea che numeri simili non si registravano da almeno 13 anni, da quando è attiva la rete di sorveglianza influenzale. Quindi se siete influenzati, se siete a letto con questa influenza fuori stagione, colpa di questa primavera che invece che andare avanti sembra fare marcia indietro, 800 24 0024. Vedrà che tutto andrà a posto, per carità, no. per carità, ragioniere. L'ho preso fuori. Questi giorni bisogna fare molta attenzione. Questi cambiamenti di temperatura. No! Scusi! Ma scusi, dico, ma scusi, potrebbe fare anche un po' d'attenzione, no? Scusi, non abbia pazienza. Scusi tanto, ci metti il fazzoletto davanti alla bocca e poi lo togli al momento che sta sulla bocca, sulla bocca. Ma qua ci sta, pulisci me. A me che prende qua. Vabbè, a me mi ha preso un occhio, scusi. Dottor Franzetti, due consigli per chi ha l'influenza fuori stagione. Sì, questa è mettetevi una... il fazzoletto davanti. Sicuramente il fazzoletto. Noi dobbiamo considerare che l'influenza è una forma virale. Quindi l'antibiotico in sé non serve a molto, se non per coprire possibili complicazioni dell'influenza. Il fatto di utilizzare degli spray a base di cortisone non va benissimo nel naso quando siamo in presenza di forme virali, perché ci abbassa le difese immunitarie nasali, al contrario invece di periodi in cui lo usiamo. È importantissimo, secondo me, uno, detergere il naso attraverso dei lavaggi nasali fatti metodicamente, e questa cosa qui già libera il naso parzialmente dal muco che può essere la fonte di aumento dell'infezione. Ma l'altra cosa che si può fare, questo un otorino non dovrebbe mai dirlo, ma solo in questo caso lo dice, si potrebbe usare per pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, un vasocostrittore, perché questo ci permette di liberare, di sgonfiare le mucose del naso e quindi di liberare di più il naso quando facciamo i lavaggi. Lei ha detto solo in questi casi e solo in questi giorni, perché? Sì, perché il vasocostrittore, se si usa per più di 3, 4, 5 giorni in maniera continuativa, positiva può dare una suefazione e tende invece che a sgonfiare, a un certo punto a gonfiare le mucose nasali e dopo è un disastro. Insomma, colpa di questa primavera un po' pazza, però tutto sommato non tutto il male viene per nuocere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Gianni Passalacqua, associato presso la clinica di malattie dell'apparato respiratorio e allergologia dell'Università di Genova. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, tutto sommato questo è un anno buono per gli allergici, perché le piogge e le temperature, anche inferiori alla media stagionale, hanno tramortito, diciamo così, i pollini, regalando agli allergici un po' di tregua. Assolutamente sì, le temperature più basse hanno ritardato e ridotto la fioritura delle piante. La pioggia e il clima umido abbattono i pollini, quindi mi fanno proprio depositare a terra, quindi nell'aria ce ne sono molti meno, come testimoniano i calendari pollinici, quindi sicuramente gli allergici ne hanno tratto un vantaggio. D'altra parte, come si diceva prima, questo vantaggio lo paghiamo in termini di raffreddore comune, quello virale, eh sì, diciamo, che è sicuramente aumentato. Ora, quando un allergico ha già una diagnosi, e in Italia molti ce l'hanno o perché si rivolgono al medico curante o all'allergologo o al farmacista, hanno già una loro terapia impostata e che quindi comunque va fatta, in quanto l'allergia è un qualcosa di cronico e di persistente. Però, professor Passalacqua, adesso la primavera dà tregua agli allergici, mette a letto gli altri, vabbè, ma non importa, anche se gli allergici possono anche beccarsi l'influenza. Ma prima o poi, insomma, il caldo arriverà. Sì, assolutamente. Dunque, sicuramente ci sarà, si spera, almeno ci auguriamo, l'esplosione di quest'ultimo pezzo di primavera. Ci sarà molto caldo, quindi sicuramente i pollini nell'aria aumenteranno in maniera considerevole, maniera molto importante, e quindi il consiglio è, se l'allergico, come dicevo prima, ha già una sua terapia impostata, di continuare a farla. Quindi non abbassate la guardia, non cantate vittoria, perché ahimè i pollini ritornano. Assolutamente no, certamente le terapie che abbiamo a disposizione sono molto efficaci. Noi consigliamo in prima battuta sempre l'antistaminico di ultima generazione, poi nei casi più gravi, nei casi più resistenti, come si diceva anche prima, il cortisone per via nasale, cioè gli spray nasali a base di cortisone. Con la cortezza, per l'antistaminico, noi suggeriamo di prenderlo sempre di sera, sono tutti farmaci monodose, quindi si prendono una volta al giorno. Sì. Consigliamo di prenderlo di sera perché, pur essendo non sedativi, in una minima percentuale di persone possono dare un po' di sonnolenza. Sì, intontisce un po', come si dice. Certo, il cortisone nasale invece è un farmaco ottimamente tollerato anche per periodi lunghi, anche nei bambini. Tra l'altro abbiamo anche dimostrazioni di sicurezza anche, per esempio, nella donna gravida, quindi non ci sono particolari problemi ad assumere l'antistaminico o il cortisone nasale anche in gravidanza. Ovviamente, se il problema di rinite è particolarmente importante e incide sulla qualità della vita, chiaramente. Professore, dai pollini, però aggiungerei i peli di cani, gatti, gli acari della polvere, poi ci sono le muffe, insomma le allergie sono tante, sono in crescita, tanto che entro il 2015 i dati dicono che potrebbero interessare il 45% della popolazione, un'epidemia, bambini compresi. Però, professor Passalacqua, qualcosa si può fare per evitare che questo numero, no, aumenti di anno in anno, sino a raggiungere questi volumi? E le mamme possono fare molto. Lei ha citato le donne in gravidanza e mi è venuto proprio il rimando. Sì, sicuramente direi che ci sono tanti fattori che favoriscono il diventare allergico. Sono talmente tanti che tutti insieme non si riescono a studiare. Però uno sicuramente è ben individuato ed è il fumo in gravidanza. Il fumo in gravidanza favorisce in maniera netta il rischio di avere poi un bambino che diventa allergico, che diventa asmatico. Diciamo che nel bambino solitamente l'allergia nei primissimi anni di vita esordisce come dermatite atopica, come allergia alimentare e poi comincia quella respiratoria, che vuol dire rinite e asma. Ecco, tra tutti i fattori che noi stiamo studiando, perché continuiamo a studiarli, quello che ha ricevuto le conferme sperimentali più certe è il fumo in gravidanza. Quindi il consiglio assoluto è di non fumare in gravidanza, o meglio, il consiglio assoluto sarebbe non fumare in generale, per tutta una serie di altri motivi. Però sull'allergia il fumo è quello che rappresenta il fattore di rischio più importante, più pesante e meglio accertato soprattutto. Professor Passalacqua, lei, e vorrei ritornare un attimo su un'informazione importante, penso per le mamme all'ascolto. Lei ha detto che i bambini allergici iniziano con prima i segni sul cutanei, quindi la dermatite, poi allergie alimentari, che sono in qualche modo segnali anticipatori dell'allergia respiratoria, ho capito bene? Sì. Certo, guardi, questo fenomeno si chiama, la chiamiamo marcia allergica, cioè la progressione dell'allergia attraverso diversi tipi di manifestazione. Ovviamente questo non si applica in maniera rigorosa a ciascun individuo, ma nella stragrande maggioranza dei casi è così. Solitamente l'allergia nel bambino piccolo comincia con l'allergia alimentare, con la dermatite atopica, e poi? E quindi fanno in qualche modo, in generale, presagire poi lo sviluppo anche di allergie respiratorie. Voleva intervenire il dottor Franzetti? Sì, che di bambini fare, ne vede parecchi. Solo una battuta, anche perché rima. Il professor Passalacqua ha magistralmente illustrato che cosa succede quando c'è in atto un fatto allergico. Il fatto di questo ritardo dell'allergia ci permette di coccolare un po' il naso prima. E sì, questo secondo me non è secondario. E coccolare vuol dire magari sia negli adulti che nei bambini cercare di fare determinate cose che sono tipo il lavaggio nasale, ma il lavaggio nasale per esempio in un bambino tante volte diventa la tortura, per sì, cui il lavaggio nasale, no? Mentre invece il problema è che per il bambino bisogna insegnargli che è un gioco. Insegnare a soffiare il naso, insegnare a sentire gli odori e che quando uno libera il naso sente di più gli odori, insegnare a giocare a chiudere una narice piuttosto che l'altra. Cioè bisogna, è chiaro che non si risolve l'allergia così, ma si mette il naso in una condizione per poter magari fare delle cure magari locali con delle sostanze, come delle sostanze che invece che intervenire sull'istamina già liberata, sì, che è quello che scatena poi la reazione allergica, che anticipano e che prevengono la liberazione di istamina. Ci sono degli spray che danno la possibilità di fare questo. Ecco, io penso che nei periodi di ritardo delle allergie bisogna approfittarne in questo senso. Professor Passalacqua, è d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Il messaggio quindi è coccolate il vostro naso in attesa che i polline si scatenino. Le regole di igiene sono comunque sempre quelle che stanno alla base di tutto, prima di qualsiasi terapia farmacologica, quindi sono assolutamente d'accordo. Un'ultima raccomandazione o comunque un ultimo consiglio è che chi ha la rinite allergica faccia attenzione se ha anche sintomi diciamo delle basse vie aeree, tipo tosse, risvegli notturni perché non respira, senso di peso al torace, perché ricordiamo che la rinite spesso si associa anche all'asma, sì, bronchiale. Quindi la rinite va a braccetto con l'asma, quindi attenzione, sì, a una tossetta sospetta, parlatene con il vostro medico. Professor Passalacqua, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno, grazie. Ma qualcosa che non va dal mio naso cola giù e giù e giù. Ma che vecchia che sei tu, hai beccato raffreddore. Dottor Franzetti, e poi c'è chi indipendentemente dalla stagione ha il raffreddore tutto l'anno, come me. Certo. Che facciamo? Ci sono varie cause, nel senso che ci sono delle cause che noi chiamiamo cause anatomiche, nel senso che il naso non riesce a far girare bene l'aria, e possono essere legate alla conformazione del naso oppure al fatto che magari nel naso si siano sviluppati per esempio dei polipi. Oppure ci sono delle cause più funzionali che sono legate invece alla situazione delle mucose e a come queste mucose muovono le ciglia, a come queste mucose producono muco, che tipo di muco producono e rendono difficile proprio la vita nel naso. Insomma, il naso è un mondo e anche indagare che cosa succede e che cosa succede di un po' sbagliato in questo mondo diventa veramente un problema. Bisogna, però avete tutti... Si può indagare sia l'aspetto diciamo anatomico attraverso delle ispezioni anche non particolarmente invasive con delle fibre ottiche. Oppure anche attraverso il prelievo con delle specie di cotton fioc del muco o della mucosa del naso e esaminarla anche al microscopio in modo per vedere com'è la situazione. Nasi ribelli 800 24 00 24, così come se soffrite di allergia o se siete a letto per colpa di questa primavera che vi ha messo KO, ma ci sono delle buone notizie. Se il nostro naso ci dà problemi, ci sono dei batteri buoni che lo aiutano a stare meglio. In linea con noi abbiamo il professor Lorenzo Morelli, preside della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutti voi. Professore, si chiamano probiotici e il nome già la dice lunga. Chi sono e che cosa fanno e che relazione hanno con la salute del nostro naso? Ma sono dei batteri, godono di cattiva stampa di solito, li colleghiamo a malattie, infezioni eccetera, però non è vero, sono solo pochi quelli che fanno male, la maggior parte possono anche farci bene o non fanno nulla, ci fanno bene e ne abbiamo una discreta quantità non solo nell'intestino, cosa che fosse nota, ma anche sulla pelle, su vari tipi di mucosa e cose di questo genere. Potrà sembrare strano dire che questi batteri buoni possono avere un effetto su una cosa un po' distante dall'intestino come il naso, ma io in questo momento ho davanti una meta-analisi, nome difficilissimo, ma semplicemente è un articolo scientifico che fa le pulci a tutti gli articoli scientifici che sono stati pubblicati fino in quel momento, no? E fa le pulci dal punto di vista statistico, quindi mette un po' alla prova i dati. È una meta-analisi uscita un mese fa e dice che i probiotici possono prevenire ad esempio il common cold, insomma il banale raffreddore, e con esiti positivi. Ma come facciamo a sfruttare questo effetto, questo preventivo dei probiotici? Allora, innanzitutto non siamo in presenza di un farmaco, quindi questo deve essere molto chiaro, siamo in presenza di un qualcosa che è legato al mondo alimentare, per cui questo suppone una ingestione abbastanza regolare, quindi non è una terapia, no? 5 giorni e sto bene, è una buona abitudine di vita e di alimentazione. E il Ministero della Salute italiano ha detto che per essere probiotici i prodotti, sia integratori alimentari che latti fermentati, devono contenere almeno 1 miliardo di batteri vivi. Anche questo deve essere garantito fino all'ultimo giorno della shelf life, quindi almeno 1 miliardo di batteri vivi al giorno per dei tempi, la meta-analisi che ho davanti parla addirittura di 3 mesi. Un miliardo di batteri al giorno sembra un numero immenso. Ah, è un vasetto di yogurt. In realtà tutto un miliardo sta in un vasetto. Sì, beh no, ma allora sta in un vasetto perché c'è molto latte, ma in realtà starebbe sulla capocchia di uno spillo, quindi se li concentrassimo. Quindi basta un vasetto al giorno o comunque, se vogliamo, 1 miliardo di batteri vivi al giorno. Meglio a stomaco vuoto o a stomaco pieno? Allora, è meglio lo stomaco vuoto, benché sia più acido, se accompagnato, allora se parliamo di un integratore alimentare, no? Quindi di un prodotto in sacchetti e in capsule, è meglio lo stomaco vuoto accompagnato da un bicchierone di un liquido qualsiasi. Che può essere anche acqua? Ah, assolutamente sì, che favorisce il passaggio veloce dallo stomaco all'intestino. Ecco, se si tratta di yogurt, a quel punto direi che è abbastanza ininfluente, perché se si miscela al pasto, comunque il latte è stato dimostrato ha un potere, la caseina del latte, la proteina del latte ha un potere di protezione su queste cellule batteriche quando passano nello stomaco. Lo stomaco è una barriera per impedire l'arrivo di tanti batteri nell'intestino, è bello acido, l'acido cloridrico, ha degli enzimi, e anche i batteri probiotici subiscono l'azione dello stomaco, ma il latte li protegge. Quindi noi con 1 miliardo di batteri siamo a posto, raffreddore lo salutiamo, o perlomeno lo scampiamo, o abbiamo dei sintomi meno forti. Sì, direi che da una parte abbiamo, nella meta-analisi che sto leggendo proprio davanti in questo momento allo schermo, dice c'è una piccola riduzione del rischio, cioè un minor numero di persone prende il raffreddore, e questo è normale, non stiamo parlando di un farmaco, ma soprattutto c'è una minor durata. Minor durata. Sì, meno giorni col naso che gocciola. Grazie ai probiotici, al miliardo di batteri vivi. Sì, sì. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una grazie buonissima giornata. Buona metanalisi. Anche a voi senza gocce al naso. Senza gocce al naso. Dottor Franzetti, a proposito di probiotici, certo, è importante e di batteri, non mettersi lo yogurt nel naso. Questo, chissà, magari. No. In faccia magari sì. A proposito di batteri, ci sono dei batteri anche nel nostro naso. Certo, perché noi dobbiamo immaginare che tutti gli ambienti che si impattano con l'esterno, che sono l'orecchio, il naso, la bocca, eccetera, eccetera, hanno una popolazione all'interno che è variegata, e la questione della salute e del benessere si gioca proprio nel mantenere l'equilibrio di questa popolazione. Poi a volte ci sono dei batteri che invece diventano sempre di più e schiacciano gli altri. Il disequilibrio è quello che provoca, diciamo così, il sintomo o la malattia. E allora, prima dei mercati, il quizzettone, perché il dottor Franzetti quando arriva qua pensa al quizzettone. Io ho preparato un libro, La forza dell'intuizione, benvenuto in naso, intuito, fiuto, risveglia il tuo potenziale innato, e questo è il libro che mette a disposizione al primo ascoltatore che risponderà al quizzettone del dottor Franzetti, che riguarda naturalmente il naso e allora, i batteri. Come si chiamano i batteri buoni del naso? Risposta numero 1: batteri F, che sta per Friends. Risposta numero 2: batteri saprofiti, che non vuol dire che se ne approfittano. Risposta numero 3: batteri anosmici ciliati, che con le loro ciglia liberano buttano il naso. Buttano via. Essere e benessere. Profetico, nonché magnetico, geometrico ed acrobatico, sei spesso problematico. E com'è il vostro naso? 800240024 funziona bene, vi dà soddisfazione? Vogliamo capire proprio questo, se il vostro naso riesce anche a catturare gli odori, insomma fa il suo lavoro, che è quello di annusare, che è un grande compito che noi spesso, come anticipava il dottor Franzetti, tendiamo a sottovalutare. Invece sarebbe proprio un bene cercare di rieducarlo, e anche di insegnare a educare l'olfatto ai nostri bambini. Certo, assolutamente, perché per esempio anche insegnare a un bambino a riconoscere gli odori, riconoscere l'odore di alcune erbe, del rosmarino piuttosto che del basilico, di riconoscere gli odori, non so, della casa, gli odori che gli sono più familiari, riconoscere gli odori degli animali, gli odori delle cose, introduce la realtà e risveglia un'attenzione quando poi il bambino, magari passando per la strada, sente il profumo di gelsomino. E poi cresciamo anche dei buongustai. Certo, e soprattutto persone sempre meno distratte, sempre più attente, più appassionate alle cose. Abbiamo Arian da Novara e Giancarlo dalla provincia di Roma. Arian, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta e i suoi ospiti. Buongiorno. Senta, a lei. volevo fare una domanda al dottore per quanto riguarda le allergie. Siccome io mi sento un raffreddato cronico, non so se magari il medico, il dottore conosce già questa definizione. Sì. Allora, se prendo un po' di vento o un po' di freddo addosso, io comincio mi scola il naso praticamente. Non dico una strana, però quasi. Sì. Vorrei sapere che cosa so, se c'è qualcosa da fare magari. Dottor Ma Franzetti, esistono... sono quasi sorella di Arian, perché anche a me capita più o meno la stessa cosa, basta un colpo anche di aria condizionata e poi abbiamo degli orari fissi durante la giornata in cui il nostro naso impazzisce. Certo, perché il naso ha dei cicli, diciamo così, di reazione e che si alternano da una fossa nasale all'altra, che si alternano durante la giornata e rispetto agli ambienti. Ci sono delle forme allergiche, che sono delle allergie cosiddette perenni, e che sono per esempio l'allergia alla polvere o l'allergia ad alcuni elementi che noi riscontriamo normalmente negli ambienti dove viviamo, dove lavoriamo, e ci sono delle non allergie che sono più delle atopie, che vuol dire non si sa che cosa, che però sono delle reattività nasali a degli sbalzi di ambienti. Che cosa si può fare? Allora, in questo caso, secondo me, intestardirsi su chissà quali farmaci o chissà quali interventi chirurgici non ci porta mai a nessuna soluzione. Le due questioni da considerare sono la prima, quella che ho detto prima, cioè di iniziare a curare il naso nei pochi momenti in cui il naso sta bene, cioè di coccolarlo, cioè di cercare di migliorare la situazione del naso con dei lavaggi. Considerando che i lavaggi non sono uguali, ci sono delle soluzioni ipotoniche, isotoniche, ipertoniche, acque termale. Ecco, ci insegna ad usarle? Perché? Iper, iso e termale. Quando si usano? Perché, per esempio, le acque termali sono delle acque termali che nelle forme allergiche croniche danno estremo beneficio. Magari conviene lavare prima il naso con delle forme isotoniche e poi con delle acque termali. Mentre invece i nasi, nelle situazioni di maggiore attività, di maggiore irritazione, le situazioni ipertoniche sono migliori, soprattutto quando uno è nel periodo di maggiore irritazione. Oppure ci sono anche, per esempio, dei preparati che uno può farsi da solo, non so, un infuso di camomilla o un infuso di malva, che a volte possono essere, lo dico in un termine un po' dialettale, poco medico, ma disinfiammanti, decongestionanti, magari tiepide. Sì. Perché il lavaggio tiepido sicuramente aiuta il metabolismo nasale, che non il resto. Per i bambini, iper, iso, toniche o termali? Ma allora, le acque termali secondo me per i bambini vanno molto bene, però penso che per i lavaggi normali userei delle acque isotoniche. Isotoniche. Sì. Abbiamo Giancarlo dalla provincia di Roma, 800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'opportunità che mi date. Ci racconti. Volevo chiedere al dottore, io ho un problema, ho due problemi. Allora, uno per narice. Uno a seguito, ecco, come avete già detto, a seguito di un colpo di freddo, un colpo d'aria condizionata, il naso... Perdo l'olfatto e sento sempre lo stesso odore, ho la sensazione di avere sempre lo stesso odore nel naso, nel naso. Ma è un odore sgradevole? No, è un odore gradevole ma intenso, quindi diventa fastidioso, è inebriante proprio, mi provoca perfino dei mal di testa. E la seconda? Per due o tre giorni questo odore nel naso. E la seconda è se io devo scegliere un profumo, annuso il primo profumo, mi si brucia l'olfatto, non sento più nient'altro degli altri, gli altri profumi, non riesco più a distinguere. Una volta che ho sentito il primo profumo è come se mi avesse bruciato l'olfatto. Allora Giancarlo, sentiamo il dottor Franzetti, quindi un naso molto sensibile. Si chiama iperosmia, cioè vuol dire che noi abbiamo una percezione esasperata di un senso che noi percepiamo, e questo è uno dei casi in cui proprio l'olfatto va educato. E quindi? Cioè, va educato iniziando a imparare a respirare gli odori, i profumi, eccetera, eccetera, sempre quelli più delicati, perché dobbiamo cercare di valorizzare quello che abbiamo. Quindi un naso iperosmico è un naso che è in grado di sentire degli odori, dei profumi che noi normalmente diamo per scontati. Quindi ha un talento? Quindi è come se uno... è un talento, sì, certo. Ha un senso talentuoso. Se uno dovesse abituarsi a sentire più odori in contemporanea. Quindi potremmo suggerirgli di andare a fare un corso per sommelier. Per esempio. Per esempio. 800 24 00 24. Voglio salutare il collega Marco Ferrari, giornalista di Focus. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Perché tra poco parleremo di un sondaggio che ha realizzato Focus proprio l'anno scorso, che aveva proprio l'obiettivo di scoprire quali erano gli odori più gradevoli e invece le puzze più sgradevoli. Intanto, se volete scrivermi l'odore che per voi è più gradevole e invece la puzza da cui fuggite a gambe levate, 349-238-6666. Essere e benessere. E siamo tornati insieme con odori gradevoli e puzze insopportabili. Marco, che cosa è emerso dal vostro sondaggio? Sono emerse, diciamo, delle conferme essenzialmente, perché noi sapevamo che c'erano alcuni odori che potevano essere gradevoli in assoluto per tutti. Quello che è emerso, secondo me la cosa più interessante è il fatto che tutti hanno confermato, una grande maggioranza ha confermato, che l'olfatto è molto importante per il sesso. E questo ci sta in ogni caso. Marco. Esattamente. In tante occasioni. Anche perché faccio una piccolissima premessa, diciamo così, scientifica evolutiva, l'olfatto insieme ovviamente al tatto è il più antico dei sensi e quindi è più collegato alle strutture cerebrali che sono coinvolte nella riproduzione e direi che il sesso con la riproduzione qualcosa c'entra. Certo. Quindi è molto confermato. Quindi bisogna affidarsi anche all'olfatto, al fiuto nella scelta del partner, perché insomma poi l'olfatto in qualche modo poi c'entra anche nella vita sessuale e riproduttiva. Assolutamente, bisogna però diciamo mettere insieme tutti i sensi, perché l'olfatto, la vista serve, anche questo è stato confermato, come il primo impatto è molto importante. Poi l'olfatto può servire ad affinare la scelta del partner per tantissime ragioni che hanno a che fare addirittura, ma non entriamo, con il sistema immunitario. Però insomma è un mondo veramente molto affascinante. Senti, ad esempio, fuggo dall'aglio, adoro la vaniglia, mi scrive Anna da Milano. Il profumo dei bambini di pochi mesi sarà il profumo più gradito per Luca. L'arrosto di mia mamma e la pipì del mio gatto come odore sgradevole. Sì. Buono il pane, sgradevole l'ammoniaca, mi scrive un altro ascoltatore, mentre il profumo di pane appena sfornato è ancora di Pietro. Insomma, il profumo di pane va molto. Va a mille, anche nel nostro sondaggio il profumo di pane appena sfornato era uno dei più gradevoli. La cosa fondamentale ancora una volta è che ci sono delle basi scientifiche che dimostrano questo. Il profumo di pane è collegato anche culturalmente ovviamente al cibo, sto dicendo una banalità, ma una ricerca scientifica di qualche tempo fa ha dimostrato che il profumo di pane fa diventare tutti più gentili. Oh, vedi, questa è una cosa, quindi troviamoci dal panettiere. Esattamente. E ho scoperto, fra l'altro online, quando ho fatto l'articolo l'anno scorso sul fatto, ho scoperto che esiste anche il profumo di pane spray, come dire. Beh, meno male che l'hanno inventato, c'è bisogno di un po' di gentilezza, di spruzzare un po' di gentilezza. Senti Marco, invece l'odore più sgradevole? L'odore più sgradevole è un odore di ascelle, se non vado errato. La classica ascella pezzata. La classica, esattamente. Anche lì la vista e l'olfatto vanno insieme. Grazie a Marco Ferrari per essere stato con noi, che sentiremo nuovamente. Grazie davvero, giornalista di Focus, che ci ha parlato di questo sondaggio che potete anche ricercare su internet. Buongiorno a Francesca, che ci chiama da Firenze, benvenuta. Buongiorno. Francesca, mi dicono dalla regia che lei vuole rispondere al quizzettone del dottor Franzetti. Sì, vorrei, ci provo. Provi. Saprofita. Esatto, bravissima, esatto, Francesca. Che non se ne approfittano. Che non se ne approfittano. Le faremo ricevere a casa la forza dell'intuizione. Grazie. Risveglia il tuo potenziale innato. Buongiorno Francesca e complimenti. Bellissimo. E noi andiamo a mettere il naso in aromi buoni. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Temporin. Buongiorno dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta, un saluto. Sta bene? Vado di filata con la sua qualifica. Medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medico di Altavilla Vicentina. Parliamo di aromaterapia. Ci sono degli aromi che producono degli effetti benefici sul fisico e sulla mente. Dottor Temporin, ce ne suggerisca un paio. Allora, sì. Suggerirei prima di tutto, per chi deve ancora fare i conti con il raffreddore, di utilizzare l'olio essenziale di eucalipto, in quanto possiamo metterlo nel diffusore di aromi, se ne mette circa una goccia che copre un metro quadro della nostra stanza, e quindi più gocce in base alla grandezza della stanza, e dà un ottimo profumo balsamico utilissimo per le vie respiratorie. È meglio metterlo di sera o di giorno? Sicuramente mettendola la sera va molto bene, perché ci fa di notte, quindi vede che domandina intelligente. La sera è il momento dell'eucalipto, e poi? E poi, se invece vogliamo rilassarci un po', va molto bene per esempio l'olio essenziale di arancio dolce, che può essere aggiunto qualche goccia anche in un infuso o in un tè declinato, e ci permette ovviamente di avere più serenità e indurre un buon sonno benefico. Tra l'altro è anche molto profumato. È molto profumato, infatti si può utilizzare anche nella vasca da bagno, in questo caso se ne mettono circa una ventina di gocce e si sta lì a bagno e si beneficia di tutto il suo potere. Buono, che dice il dottor Franzetti? Assolutamente da provare. Perché il dottor Franzetti diceva: coccoliamo il nostro naso quando sta bene, sicuramente con gli oli essenziali riusciamo a farlo. E ha un'altra chicchetta per noi: eucalipto, arancio dolce. E con che cosa chiudiamo, dottor Temporin? Diciamo che se cominciassero le belle giornate, quindi cominciamo a fare un po' di sport all'aria aperta, magari andiamo a correre ma i nostri muscoli sono un po' acciaccati, ecco che allora un bel bagno con l'olio essenziale di ginepro ci aiuta a dare un effetto ristoratore sulla muscolatura, un effetto tonificante e rilassante. Il ginepro, allora, per i nostri ascoltatori sportivi, oltre ad accarezzare il muscolo, hanno anche un piacevole profumo, il che non guasta. Abbiamo visto che la puzza, l'ascella pezzata è l'odore più sgradevole. Grazie, dottor Temporin, per essere stato con noi. Un saluto a tutti. Buona giornata. Sono venuto in cucina per sentire un po' gli odori. Piglia il piatto degli antipasti, va? E chi è voi? Perché? Antipasti? Oggi viene a piovere. Ma non signore, fate l'antipasto, perché oggi non ho fatto il secondo piatto, ecco qua. Volevo dire. Volevo dire. Ma dai, che basta, no? Volevo dire. L'uno o l'altro. L'antipasto o il secondo piatto? Volevo dire. Teresa. Secondo te questo sarebbe l'antipasto? Perché non è l'antipasto. Tre ulive. Vabbè, quante persone siamo a tavola? Tre persone. Un'oliva a testa. E noi andiamo a mettere il naso nella cucina di Andrea Ribaldone, che è in linea con noi, Executive Chef Italy Tokyo. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao Nico. Che prepara per noi, per Essere Benessere, quindi per voi che ci ascoltate, delle ricette straordinarie che abbiamo a disposizione anche sul nostro sito, sulla pagina del programma. Andrea, allora, facci venire l'acquolina in bocca e poi possono gli ascoltatori trasferirsi naturalmente sul sito. Che cosa ci hai preparato? Ecco, ricette velocissime, talmente veloci che non è il tempo neanche di fare un soffritto, quindi noi proprio contro soffritto. Oggi cosa facciamo? Contro soffritto. Oggi cosa facciamo? Piselli, anche quelli surgelati, li frullate solamente con dell'acqua calda e vedrete che sentirete tutto il profumo della primavera e un colore anche bellissimo. Quindi li frullate con acqua calda nel frullatore il più potente che avete, lo passate al colino cinese, una salsa di piselli coloratissima e freschissima, aggiungiamo un uovo cotto a bassa temperatura, basta che tenete l'acqua sulla fiamma più bassa che avete e che rispettate una temperatura che sta intorno ai 70 gradi, una cottura così di mezz'ora, rompete l'uovo in mezzo alla salsa di piselli, vedrete che sarà proprio formato quasi come se fosse in camicia, ma ci è voluto pochissimo a farlo, meno impegno, e un battuto di pomodori secchi, è un piatto primaverile, profumato, colorato e davvero semplice. firmato Andrea Ribaldone per Essere Benessere, quindi un regalo che ci fa Andrea Ribaldone e che ci svela anche con un video. Le ricette che Andrea Ribaldone pensa per noi sono, come ha anticipato, ricette salutari, molto semplici e che hanno quel tocco di magia che la cucina, l'alta cucina regala. La cottura di questo uovo cotto a una bassa temperatura per una mezz'oretta, ecco, che trasforma quello che potremmo pensare l'uovo sodo invece in un uovo in camicia. Questa è un po' la magia, Andrea. Bene, proprio così. A volte sembra difficile, complicato, invece è molto molto semplice. Lo potrete vedere sul video e così anche a casa riproporlo ai vostri amici o quando avete voglia a casa mangiarvelo in serenità. Pensando a noi, intanto Andrea Ribaldone torna la prossima settimana. Grazie Andrea. Stasera seguiremo le tue indicazioni, anche forse il dottor Franzetti, che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi. Se volete mandarci le vostre mail, se non siete riusciti a intervenire in trasmissione, il dottor Franzetti nei prossimi giorni ci invierà la risposta. Essere benessere @radio24.it. Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, dottor Franzetti, grazie ancora, vi aspetto domani. Essere benessere.